C'è qualcuno su Uzbekes? Ciao Massi, buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Che si dice? Tutto tace stasera, tutto tace. Tutto tace e poi scream. Ascoltami, io mi faccio mandare, se non ti crea problema, mi faccio mandare il numero da Claudio, il numero tuo. Siccome io domani sono libero, così ci possiamo vedere, ti porto quel microfono. Come vuoi, non ci sono problemi. Se vuoi te lo passo anche adesso, qua in frequenza. No, non c'è problema, no. No, già me lo passo a Claudio, per quello non c'è problema. Vediamo un po' se c'è Claudio. Claudio, ci sei? Sì, io sono qua. Ciao già. Ok, là. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato. Va bene, allora me lo faccio passare da lui. Magari mi faccio una scappata e te lo avvicino, dai. Scappa, grazie, dai. Appena l'hai avuto mi confermi e niente, dai. Ci aggiorniamo, ok? Scappa già. C'hai per caso qualche batteria 9 volts? Ce la buschiamo, la compriamo la batteria 9 volts, dai. Cioè. Andare. Ok, là. Così provi le connessioni. Se vanno bene lo lasci così, se non vanno bene te le fai quelle che ci vogliono, là. Scappa. Ciao Claudio, buonasera, appena ascoltato. Ciao già, io quanto c'ho le macchine, però non ho avuto modo di... Se combinano, vediamo domani mattina. Perché io domani mattina c'ho un impegno, se non faccio domani poi no, sono incasinato. Oggi ho fatto due commissioni importanti, però domani dovevo andare a linea. Adesso vediamo a che ora mi libero di questo, di questa operazione che devo fare. Devo fare una cosa. Se riesco a liberarmi presto, vediamo un po' se riusciamo a combinare. E questa voce la spiamo, me lo segno in un pezzo di carta e poi te la mando, ok? Sì, non ti preoccupare, va. Ma andiamo così, io le faccio uno squillo e se lo memorizzo, va. Così se devo mandare qualche foto, così si rifà un po' gli occhi, Gianni. Scappa, ascolta, tu Telegram lo usi? Cosa? L'app sul telefonino, un'applicazione per Android, che è praticamente l'equivalente di WhatsApp, si chiama Telegram. No, negativo, io c'ho WhatsApp. Peccato, perché vabbè, il vantaggio che ha Telegram è che lo puoi installare su PC e lo puoi manovrare senza che il telefono sia vicino e acceso, capito? No, non li so, quello, non la cerca con un PC a preciso, no. Io volevo mandare un messaggio, mando un messaggio a Motozappo, se no chiamo direttamente. E no. No, io non è che quando arrivo a casa prendo, accendo il PC, non mi interessa. Io quando mi devo cercare qualcosa addirittura me la cerco dal telefono, neanche ne accendo il computer. Ehi, no vabbè, ti stavo spiegando che c'è la possibilità di scaricare sia WhatsApp sia WhatsApp e Telegram per il PC, in modo che volendolo si possa usare anche col computer, capito? Stavo spiegando questa cosa qua. Telegram ha praticamente ti dà la possibilità di interagire, di messaggiare anche se il telefonino non è connesso al computer, capito? Mentre WhatsApp ha bisogno di connettere il telefonino al PC, ecco, era giusto questo per fartelo sapere. Ah ok, vabbè, io uso sempre WhatsApp, mi sembra più pratico. Sì, mira, adesso come Claudio riesce a vedere. Ok, mi ha girato il numero. Allora, ti faccio uno squillo, il mio finisce 416. K, dai, ce l'ho il numero vicino, dai, così lo memorizzo. Ok, sta squillando? Sì, ti ho fatto uno squillo, dai. Adesso memorizzo il tuo numero, dai, riprendi qua. Sono mandata. Sì, grazie qua, me lo sto memorizzando, ok, riprendi. Ok, memorizzato. E quindi già, quando fanno la rosita dei candelieri ci vuoi sempre tu, così è. Non ho capito, cosa hai detto Massi? Ho detto, quindi quando fanno la rosita dei candelieri ci vai spesso. Guardi, li ho visti in tutte le stanze con tutti annessi e connessi, quindi ne ho, come ti si dice, sono pieno, sono fulmi. No, perché io sono tantissimi anni che faccio l'arrostito dei candelieri, capito? Ah, ok, ho capito. No, vabbè, adesso diciamo che per tutta una serie di cose, anche a livello, cioè, mentre prima, guarda, l'ultima volta che ho lavorato il giorno dei candelieri è quando ho fatto il video, le immagini per i calzolai qualche anno fa. Ma io non lavoro per i candelieri, attenzione. Noi facciamo due giorni prima, facciamo l'arrostita per i candelieri, l'arrostita che fanno lì in Porta Sant'Antonio, hai capito? Sì, non, ho capito già da poco fa, no, era giusto per dirtelo. Sì, conosco, vabbè. Siamo vicini a casa, quindi so conosco bene la situazione. Ma io so anche bene dove abiti, perché noi abbiamo fatto gli scavi per il gas lì via 25 aprile, capito? Quindi la conosco bene. Ok, là, va bene. Niente. Adesso ti mando una foto con che radio sto modulando. Gappa, gappa. Praticamente è un comitato quello tuo, così è Massimiliano. E io, siamo 13 circoli, capito? 13 circoli e in ogni circolo ci sono 13 persone. Sì, vabbè. Un bel lavoro quello, mamma mia. Io lo so così. E beh, perché non me lo sta facendo, non me lo dà? Aspetta. Ma lui non ce l'ha WhatsApp, me. Ah, non ce l'hai motograppa tu. Io c'ho. Non ho un sistema Android, c'ho Lumia, c'ho il sistema Microsoft, e mi si è praticamente impallato il telefono, e quindi mi stanno dando problemi. No, pensavo ci avevi WhatsApp, va. Va bene, là, comunque il numero me l'ho memorizzato. Ok. Poi domani mattina tanto uscirò a accompagnare mia figlia a scuola. E poi se riesco ti faccio un colpo al telefono. Non so a che ora sei sveglio tu la mattina, Dimmi tu, io mi faccio trovare pronto. Sì, non lo so, non ti so dire l'orario perché non so se. Non sono sicuro, capito? Però se non è di mattina, ma tarda mattinata o di sera, comunque riusciamo a farlo davvero, va. Non ci sono problemi, più o meno orientativamente mi dici come sei messo, come ti viene meglio e niente, io mi adeguo di conseguenza. Come ho messo, questo dobbiamo vedere a che orario lo trucchi. E aveva ragione Dino, ciao T, buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao T. Dino, ciao qua, ciao Gianni. Gianni. Eia. E ti ha salutato Tino, non l'ho sentito. Sì, forse gli ho parlato sopra. Ciao Tino, buonasera. Ciao Gianni, ciao. Va bene, continuate, sono qua in Rix che sto facendo una cosa dal computer. Oh T. Nel nuovo Ugo. Oh T. Oh I. Ha provato con l'antenna Antonio R, già lo sai. Tutto in corto, che Soprattutto. So, anche perché sono passato la sera a casa sua e per carità. Io ti dico la verità, ho speso 40 euro per farla fare, quindi gliel'ho data di tutto buon cuore, per carità, gliel'ho regalata. Cosa vuoi che ti dica? Devo aggiungere altro? No, non aggiungere altro che è meglio, lascia perdere. Allucinante, poi mi stava appunto spiegando come è stata fatta, ma è mai possibile che tu l'avevi tutta bianca? Se c'è un problema quella si poteva risolvere, invece adesso non serve a niente, perché come fai a risolvere il problema? Lo so, vabbè, passiamoci sopra, vai, che è meglio. Cioè ti sto dicendo che l'avevo piazzata io a livello 2 metri dal tetto, la mano va già vista che altezza è, allora pensiamo che aveva tutto il controllo, arrivavo 7 da te e poi la mano va 9.15, 9.10, ma che cosa c'è? Ehi, va bene, mi devo aggiungere niente, oh. Non mi spiace perché io non ne ho, se no li ho dato io, non c'è problema, sai l'amicizia che abbiamo, Antonio, ci facciamo una vita. Però mi dispiace, proprio 0 contro 0. 0 contro 0. Segnale 1 arrivia. Vabbè, vai. Riprendi Tino. Ma ci vediamo. Abbassa qualcosa, che fai una brutto, un sotto allucinante. E in fondo ai capelli, a te chiudo la porta. Sì, chiesi. Ma che mi stai sciutendo i riccioli da me, che non agio. Vedi il bello di questa stanza qual è? Che tu chiudi la porta e non senti più niente. Massimiliano. Oh! Ho visto una foto su Facebook che per poco non ti riconoscevo, dall'ultima volta che ci siamo visti. Anche in aggiù messo tutto. Non me lo ricordavo così. Vabbè, cosa devi fare? Tanto, però averne 5 euro io ogni fine settimana, la macchinetta è tutta a terra, via, dato, cosa ne fai? Guarda, siamo, non dico quasi, ma a quel livello anche qua, quindi. Vabbè, preghiamoci la salute e va. Infatti, è importante che ci sia quello, la buoni, beri. Vabbè, l'ultima volta che ci siamo visti, mi pare, da Lucca, mi pare, no? Qualche anno fa. No, ci siamo visti quando stavi scavando lì vicino al carcere. E io stavo facendo la recensione lì all'altra impresa, non te ne hai capito. Ma ci siamo visti anche, vedi che sei in mezzo lì, qualche tu. Ci siamo visti a casa di Lucca, siamo andati anche a berci una cosa a casa, quel bar che c'è vicino a casa di Lucca, che io le avevo portato un alimentatore e lui me l'aveva dato un altro, e invece poi quello che mi aveva dato lui non andava bene. Ti ricordi? Sono ricco veramente. Quindi se mi va vedere un annetto fa, no, di più, da forse un paio d'anni. Sì, qualche anno, perché io con Luca stavo facendo i lavori forse 2 anni fa e poi l'ho perso di vista definitivamente. Era 2 gabbulenti, vabbè. Io veramente non l'ho neanche più sentito in radio. Guarda, non so, no, io l'ho chiamato, vabbè, siamo un po' senza sentirci adesso. Il radio mi sa che non ha più niente. Ah no, non lo sapevo. Ma tu sei qualcosa? Assolutamente no. Ma io pensavo che almeno ancora qualche la radio e antenne e cose ci aveva da. Ce l'aveva, poi non so se ne ha tolto tutto, questo non te lo so dire. No, io so che si è venduto anche a 140. Ticket, c'è una radio, se fa vedere. Non c'è più niente. O perlomeno, che sappia io, e che mi ha detto lui un annetto fa. Poi c'è altro, non so, so che sta parlando col Baufer, ma niente di che. No, dai, io mi sembra che l'ho sentito, sarà forse 4-5 mesi fa, no, non me la metto, c'ha sempre un, cosa c'ha, un flutto, una cosa del genere, un baracchino così, un tornado, mi pare, cosa c'ha? Aspetta, tu stai dicendo Luca, ma in cugno, Luca del Monte. Sì, Luca, tu stai dicendo Flippers. sì, ho capito, adesso mi ho collegato. Vabbè, anche a Luca Flipper sono da tanto, e prima lo sentivo qualche volta, così adesso sono andato anche a lui che non lo sento più. È quello che vuol dire, stavo parlando di quello. Vabbè, vuol dire che non ci vogliono degnare della loro compagnia, non importa. No, ma Luca del Monte ci sono usciti anche a poco a prezzo. Luca non sta entrando perché praticamente sta quasi tutta la settimana alla marina e lì in baracchino non ha, capito? Però quando va a casa sua ce la esce anche molto bene, c'è il typhoon con il MB+5, esce benissimo, solo che non ha possibilità, fine settimana magari qualche volta si è fatto sentire. L'ho preso io quel 14 OT. Sì? Sì, ma l'ho preso io. Ne avevo prima uno, me l'ho venduto e poi mi ha preso quello di Luca. Cosa l'ho tenuto? Forse qualche mese, e poi mi ho venduto anche quello. C'era uno bello, perlomeno a me piace. un 44, 700 euro, buono, tutto riallineato, tutto perfetto, ma come non prenderlo, ma poi ho detto, ma che cacchio non prendo a fare il gemellaggio. Aspetta, vado a aprire che stavo suonando giù, riprendi Gianni. Eia. Sempre smanettando stai? No, no, sono con Lincoln, troppo complicato. No, me l'hai detto tu poco fa che stavi facendo roba, insomma, che ci avevi le mani in pasta a me. Ah no, sai cos'è? Già, che ho comprato a mio figlio quei tubi Princess, come si chiamano, che c'è la PS4 in concorso. Sto provando a caricargli il numero di serie più lo scontrino, però mi pare una mezza abbigliata da farogneccio. Ho capito. dai, continua così, dai, ok, avanti qua. Ai, attivo, ci arriva un doppione, figurati, ma è capitato a me uno più nuovo di questo che sto usando io, nuovissimo, questo qualche graffietto ce l'ha, ma non me la fucchia nuda, con tutti i viaggi che ha fatto questa radio, alla Landettorra, adesso finalmente è a posto, ma un 300, io 200, figurati, ma lo volevo tenere, poi stavo decidendo, ma la tengo, l'ho fatta vedere ad uno, tieni 200 euro, via, ce l'ho portata via, non è di Sassari. 200 euro, un 4,40, 200 euro, nuovo, non so se l'ha revisionato o meno, comunque io l'ho provato e funzionava, e lui la sta usando, non qua, ad Olbia, e funziona perfettamente, quindi, 200 euro, ma anche lui ne vuole 450, che era bene da entrare armati. Ah sì, quello sì, no, ma te lo dico anche, va negli alberi sta lavorando, quindi... Solo che sinceramente non faccio un attimino che c'è gente del perno dopo. Ehi, vabbè, quando capita l'occasione bisogna prendere al volo, poi io lo cento, praticamente lo stavano vendendo, lo cento l'ho venduto, ma giù di guadagnare denari qua di là, non ho bisogno di speculare, però 450 euro si può vendere una radio del genere. Se non era visionata la Berumisi della Sapiri in una casa di Trento, come ha fatto quella di Giulio. Vabbè, avanti Massimiliano, riprendi, se vuoi riprendere, no? Riprendi tu Gianni, riprendi. Ehi, vabbè, passata nella cervicale, no? No, non mi sento, ma sono, non c'ho grippa di niente. Ho un mal di testa da ieri, stamattina sono andato anche dal medico, mi ha detto puoi ritenere. Ma male, non sto dormendo niente, mi fa male il collo, proprio mi viene a volte capogiro, nausea. Sono subito qua con la finestra aperta per far entrare aria, perché c'è un caldo allucinante, c'è ancora il riscaldamento acceso. E non fa già. Quando mi senti così, che non ho grinta di niente, vuol dire che non sto bene. Purtroppo la cervicale l'ho presa qualche anno fa, prima di andare in pensione. Ormai non mi si è aggravata, tutto il freddo che prendevo, lavoro e acqua, e quindi me la devo tenere. Sto prendendo delle bustine per vedere se passa, ma anche oggi non è che sono in netta forma. Già si sente fianco a fianco proprio, immagino tutti, insomma, tutte le volte lì a Rufredo o a Leva, insomma, e quindi capisco la situazione, quindi me lo posso immaginare, ecco. No, è chiaro, però nel discorso toccante, poi avevo fatto lavoro a un conosco, dai, stasera, a Fabrizio, e mi ha detto parlando di questo... di questo fatto qua, ma la tua non ha niente, non vuole solo messo quel potenziometro e perché non ti tieni quella tua? No, a te la già la tengo, figurati. Per vedere, insomma, dovrò andare in altri mani, perché è buona anche quella dei danni, capito? No, ma che a me me l'aveva detto, io stesso volevo cambiare il 430, ma come tieni, no? No, sono falsi contatti, sono stronzate, e così ho fatto, ma lo sono tenuto, anche perché mi aveva cambiato il display, Fabrizio, aveva tutta sistemata e quindi me la sono tenuta. Sì, il problema di questa radio lo sai qual è. Una volta me l'ha fatta lui, la seconda volta poi che avevamo avuto il problema che abbiamo avuto, l'ho dovuta spedire fuori e niente, capito? E adesso finalmente è tornata nuova perché è tutta revisionata, tutto il sistema di condensatore è stato tutto cambiato, tutto a posto. L'anno scorso, tanto siamo a primo, l'anno scorso mi pare, prima dopo Natale, la stavo usando poco, perché ero impegnato a fare altro. Sono andato a accendere, io di solito quando l'accendo è sempre 27, però per non accendere la KF per ascoltare, ho commutato, sono andato in 40 metri, ho schiacciato la portante e non andava, nulla. Levavo un colpetto e andava in 40 metri. Poi si ribloccava e alla fine ho consultato uno, ho detto guarda potrebbe essere vedere commutazione di banda e così era. Infatti ho consultato anche a Fabrizio perché a Sassari non ce n'erano. Praticamente mi pare che questo era a 4 piedini, quello che avevo trovato io a 6 piedini e lui mi aveva detto come fare per farlo funzionare, c'era da fare un ponte eccetera. E me l'ha fatta il cognato di Massimiliano, perché io non sono capace di fare una cosa del genere, ci vuole l'attrezzatura giusta. Me l'ha fatta il cognato di Massimiliano Garvini, l'ho portata lì, già aperta tutto, ho tolto il del vecchio, non gli ho detto come fare per farla funzionare e mi ha messo il relè nuovo, capito? E me l'ha detto Fabrizio come tramite Roberto come fare il ponte, capito? E adesso è a posto. Cosa vai? Alla RAI, una volta a punto. Certo che se non dovesse più funzionare battono questi 4 e 40. Mi sono rotto le balle, mi usciva una radio nuova. Vabbè, non avete in dubbio, ma io sinceramente non mi sta chiedendo niente. Se c'è da spenderci, che ne so, 10-20 euro ancora. Se c'è da metterci nel 200, ti dico no, lascia la stare così com'è, e vuol dire che si userà la pizza per altre cose. No. Infatti io per ben due volte l'ho fatto, perché una volta l'ha fatta Fabrizio, già lo sai che no, non vuole niente, e quindi l'ha fatta lui, e va bene. La seconda e terza volta ho dovuto pagare, quindi alla fine chitarra radio quanto guglia, e quindi me la tengo. Adesso poi soprattutto che è tutta revisionata, ecco perché bisogna stare attenti quando prendi un 440, perché se non è revisionato, cioè se io per dire te la do, no, tutti, prendi questa che è a posto, ti dico è a posto perché è revisionata, il problema è quello che fa. Ma se tu vai a comprare dall'altra parte, non è revisionata, dopo 2-3 mesi ti lascia a piedi, cazzo ce ne vuole un'altra 200 sopra, ed è una rottura di balle, capito? Una rottura di scatola perché non conviene, cioè oramai sono radio da 300 euro, quindi metterci altre 200 sopra, va a 500, la mia ha già passato 1000 euro, con tutte le riparazioni che ha avuto, alla fine è chiaro che me la tengo, non la posso dare più, perché non mi conviene darla, tutto qua, capito? Sì, non metto in dubbio. Vabbè, lo riprendi. Massimiliano è entrato, sì. Vuol dire che ha aperto la porta e ce l'hanno fatto uscire a lui. No, deve essere arrivata la figlia con la moglie, ma lei sta parlando, perché lui è sopra, capito? Deve scendere giù, c'è l'altro piano. Avanti Gianni. Ui. Quanto gusta di chitarra, per carità. Crocro, come ti divisi? Vabbè, ieri poi alla fine siamo rimasti un bel po' a chiacchierare con Giulio e poi niente. Abbiamo fatto radio, dai. Anche con Doppio Room che si è trattenuto. E stavamo raccontando un po' di tirando fuori i vecchi ricordi delle radio e delle TV di Sassari. Sì, li avevo sentito, stavate parlando delle emittenti private, certo, non ne avevo voglia. Non ne ho voglia neanche io, ci ho questo mal di testa, mal di collo. Vabbè. Sì, la tua è a posto, già devi, la tua è tutta revisionata, fa un po' tensione, però i biglietti non altro. Ah, appena c'è, due minuti Fabrizio, a lui già trovato. A me mi aveva fatto dei pomelli del 440, figurati. Qualcosa ce l'ha sempre lui di pezzi di ricambio. Perciò non sarà un problema quello, no? Allora lui già te la mette a posto, la tua è nuova, è una radio tenuta molto bene, come questa sì, cioè che sono un po' più nuovi, però questa frontalmente e internamente è a posto, i che sono un po' rovinati, qualche graffietto, c'è anche di troppo, ma non me ne ha fatti nulla. Radio Vicia, cioè, la lingua rompe le balle, di ritorno vado a Roberto, faccio fare al pintometro la tinta uguale e li faccio nuovi nuovi. Allora, già va bene. Non mi interessa, non ormai. Sto giocando con questa, figurati. E poi ieri già, se ne accorgo eravate in radio, perché io sono entrato, vabbè, sono arrivato da Orizzano che forse erano 10 e mezza. Però acceso non c'è nessuno. Beh, guarda, non mi ricordo, forse abbiamo chiuso intorno alle 8 e mezza, 9 e un quarto, una cosa del genere. Ah, sì, orario quando quando fai orario. No, vabbè, già abbiamo iniziato da presto, orario in quel senso, dico, che siamo rimasti un bel po'. Me Claudio già ce l'ha passata insieme a noi stesso, l'orario. Tu pensa che io partivo alle 5 del mattino per andare a Palau, ma ti parlo del 89, quindi mollavo a casa e prendevo la macchina. Lo posso immaginare. Vabbè, altri tempi sì. Sì, c'era più gente, c'era più divertimento, c'era quello che poi veniva recuperati perché magari era insabbiato, c'era quello che magari veniva recuperati perché aveva bucato con lo spone, ma insomma. Ecco, il bidone della benzina soprattutto. No, guarda che allora i telefoni scarseggiavano. Canta sempre a me, pizzicava a mezzanotte, a luna di notte, capito già, sempre uscire. Sì. Ragazzi eravamo, mamma mia, vabbè io lavoravo alla promofiera, rente fiera allora, quindi non avevo problemi perché entravo alle 9, 8 e mezza, 9 andavo in ufficio, all'ufficio in via Torres, ma fino a quando non eravamo in costruzione va bene, ma non eravamo in costruzione che Manzano doveva andare a Piazza Vescegni, anzi, dovevano andare lì a seguire tutti i ragazzi, si mi aggiace un carboni ogni giorno, mamma mia, erano bei tempi, ma quante ore di sonno ho perso questo cazzo di baracchino. Vabbè, tanto fuori. Cosa succede? Ma tipo di caso, invece così, chiacchierati, no? Vabbè, altre cose. No, io mi ricordo sempre, allora eravamo piccini bizzoni, che allora ci avevano chiesto tutti quanti in macchina, e c'era il periodo che ci avevamo comprato le pistole a salto, no? C'è chi era con quella tamburo, c'era quella con la carabinope tipo semiautomatica, e in greffa facevamo, tipo al Zatec, lui testa a coda, ci scendevamo dalla macchina sparandoci uno con l'altro, ma alla fine poi sarebbero a quadrato, abbiamo fatto un po' di cazzate, c'era gente che montava a Platavola, scendevamo così, no, e io facevamo a Platavola la stessa cosa, tipo che noi stavamo seguendo a loro, poi facevamo testa a coda, se scendevamo ci mettevamo a sparare, la tua gente trombando, grazie a voi, e vedi gente fuggendo. Già me lo posso immaginare. Vabbè, una volta vabbè, senza pistola di giocattolo, ti parlo di un sacco di anni fa, c'era questo mio amico che aveva ereditato un'alfetta dal cugnato, praticamente era incidentata e quindi la macchina tendeva praticamente quando frenavi tendeva a buttarsi a sinistra. Praticamente l'ha aggiustata alla bella meglio, praticamente questo qua era un pazzo, ma non perché sapeva guidare, proprio perché era un asino. E quindi il cazzo, immaginati un Alfetta 1008 in mano a uno che non c'è buono. Ci arrivavamo praticamente a trovare dei nostri amici al monte, vicino alla forestale, ci mettevamo da lontano a fare i spinti, sai, no, gli Alfa Romeo si riconoscevano, allora due o tre accelerate, ne vedevi gente fuggente, poi partivamo sgommando, roba di fumo, quando ci fermavamo lì avanti, roba di giusta, roba di mischia ci facevano, ragazzi. Ho ripreso, sono cose che facevamo da ragazzini, siamo divertiti. Va bene, ripreso, allora che è arrivata una figlia, questa la faccio vedere qualche passo di danza. E beh, tu non lo vai a fare il ventre. Eia, una verretta. Fisichetto che canta. E beh, adesso va bene. L'importante è che mantenga quel fisichetto. Ieri era uscita da Bissina e uscì a sempre la manna, non ha cambiato niente. Cazzo, ma tu io vedevo le gambe muscolose, isciuga, sei impressionante qua. Tu mica fa lunedì, martedì, giovedì e venerdì. Vabbè, non è che mi vince lo di data, c'è Bissina, può fare anche altro. E quando lo fa l'altro? C'ha solo il mercoledì libero, gli altri giorni è tutto lezioni private, gelosiai, no? Massimiliano, cosa fa? Danza? Sì, danza fa, latinoamericana. Con che? Con Alessandro e Caterina? No, con Giuseppe Maletto. Ah, e mia sorella ha iniziato con Alessandro e Caterina, poi si è aperto la... un'attività lì sua, diciamo, poi però l'ha dovuto abbandonare per via del lavoro che stava già facendo da gli altri mobili. Ma perché ancora lì Elena? Ehi, uia, secondo te? Si sciuca, è un cane vale, ma non se ne va in pensione. In pensione ancora se ne manca, no, adesso, vabbè, come si dice, ha deciso di fare part-time, si chiama, no? Perché da quando ho avuto a Rebecca, insomma, lavora 4 ore se non sbaglio, 6 ore, adesso non ricordo. Ma cazzo di, cioè la Simone c'è una vita, 35 anni bastano per una donna, quanti ne ha? 50 ne ce li ha lei? Sì, perché sì, da poco anche. Mi ricordo perfettamente. Pare che avesse 8 anni meno di me, una cosa del genere. Quindi finisce ancora lì. Vabbè. Meglio. Ma non c'è più. No, vabbè, Raffaella era andata via. E poi Raffaella ha sposato uno dei miei dirigenti, su un gabbo di Bugnetta. Vabbè. Olle c'è ancora, però sta facendo, ti ripeto, 4 sì, adesso non ricordo. Sì, part time, sì, lavoravo a Raffaella, abita lì all'inizio proprio dove c'è centro casa, una, due, la terza si gira a sinistra per la casa che c'è lì, abita lì Raffaella, si è sposata uno che... Ma com'è il mese che è andato 2 anni prima, se no non vorrei rimettere la pensione a chi ne aveva cercato un gutto. Vabbè, però cosa fare? Sono stato io a essere scalognato, che se n'è andato in pensione, guarda, ha chiuso il battinti da Francizia. Sì, vabbè, ti c'è sempre un mestiere in mano, Palottino. L'importante è quello, capito? È un muro di fame. Quando uno c'ha un mestiere in mano, Mario quando uno non sa fa nulla. Allora è diverso, allora non ha sbocchi, non ha nulla, però tu grazie a Dio sei uno che si dà da fare in tutto e c'hai le mani d'oro, sai lavorare, ho visto cose fatte, sai lavorare, poi ti conosco una vita, perciò già lo so, e come ti su Gabo e Bugnetta Massimiliano. L'unica cosa che non fa è non sa frattassare, cazzo, si frattassa le dita. Massimiliano. Ah, a me piace fare tutto, non è che, per carità, non sono limitato, sono, anzi, addirittura, ultimamente ho fatto, mi pare che il più poco noi abbiamo fatto 15 km di salvature in polietileno, puoi immaginare? No, ma già lo so, c'è il fatto le verande lì, o Massimiliano, da lì qualche giorno fammi le foto dove partigia le macchine padrino e manda, la faccio da Massimiliano, ma belle. Belle le tettoie, che sono favolose, ma belle veramente. Claro, quando c'hai, diciamo, l'attrezzatura giusta, un po' di ventiva, si fa tutto, tu gli usare. No, beh, anche tu, perché sei meno, però dico a me te, tutte e due come lavoro base lo stesso lavoro, no, mezzi, eccetera. Però avete tutte e due molta manualità nelle cose, perché io già lo sai, sono venuto da te quando stavi facendo i lavori e ti ho visto, insomma, poi ho visto quello che le finiture che hai fatto dalla stampa lunga su, fatte bene, ordinate, e va benissimo. Mattino Tino micidiale, non sapevo neanche che lavoravi anche il legno, sì. Bellissime con le tettoie, molto molto belle. Sì, la lua, sulla niente, dal momento che ti fai la struttura e decidi come volerla, poi ti fai le tue misure, te le metti, te le assembli. Inventiva ci vuole altro per voi, ma soprattutto devi trovare anche la maniera che ti diano di piazzarla la cosa, se no è inutile essere bravo in tante cose, non te le fanno fare. E soprattutto il issue. E vabbè, vabbè. Caro Gianni, tu sul microfono e telecamera sei trattato, non serve altro. Un po' di piantistica, a livello elettrico, un po' di conoscenza a livello elettronico, insomma, a livello tecnico un po' di tutto in quel settore lì, capito? Poi per il resto un po' di meccanica, però per il resto basta. Kappa, e a me anche quello è un lavoro. Va bene, io ho praticamente iniziato nei trasporti, poi quando sono entrato, ho seguito sempre quel tipo di lavoro e sono andato via con quel tipo di lavoro, quindi depurazione, potabilizzazione e ti aggiungo chilometri, ma no a saldature in polietileno, aggiungo a saldature di dubbi, chilometri, boh. Tu immaginati quando io lavoravo a San Rocco, alla Saras, che stavamo facendo l'allineamento per il pontile delle petroliere, perché lì arrivavano le petroliere, frange da 72 pollici, frange a 72 pollici, per appoggiarle a chiudere la gru di rubino, per spostare curve tubi da 72 pollici, due saldatori dentro, no, due tubisti dentro e due saldatori fuori, con tornichetti in mano davanti di Savanca, da 2 metri, per cercare di tirare e avvicinare il tubo per saldare. Ma ho visto i goci, ui, e vabbè, questa esperienza è... Avanti, Massimi. Sì, domanda, Cla, il console 2, quanti canali è? Console 2, allora, il console 1 mi pare che sia 40 canali, il console 2, noi ce l'ho avuto il base, è sempre 40 canali. 40 canali senza FM, giusto? Cioè USB e LSB, giusto? E si conferma, l'ho dato a Gianni KP2, ed era di Mario Mao, il console 2. 40 canali, USB, LSB, senza l'FM, cassone in legno, tipo il Royce, una cosa del genere. No, il Royce è più bello, mi dispiace. Non so come vai bene, ma il Royce è molto più bello esteticamente, manco a paragone. Aggiunto tipo come è fatto, come cassone, lascia stare il Royce, che il Royce porta il nome della Rolls Royce, e quindi quando tu vai un Royce, vai una radio. Non vai a un baracchino, vai a una radio seria. E tanto vado la tua radio sotto giurato, no, una volta mio padrino è custodito dentro la vetrina, tutta impiumarata, mettino già l'ha vista. È sempre in chi vi è, mi sembra la commessa io lì dentro, è sempre lì. ce l'ho io qua, ma non so se è questa o l'altra, questa è quella attaccata alla 220. Allora, se tu c'hai quella con l'orologio rosso digitale, è quella mia. Se tu c'hai l'orologio meccanico, non è la mia. Allora, questa è, dovrebbe essere, perché l'orologio, forse perché è tanto tempo ferma, ecco, l'orologio digitale rosso, però mi segna solo i canali. No, l'orologio non lo vedo, capito? Quindi sicuramente vorrà messa sotto il fiore anche questa. Però è una bella cosa, mi piace. Mi piace. Allora, signora Radio, vorrà che sia quella mia, è a tre strumenti o a quattro strumenti? Mi ha tre sulla sinistra. Tre sulla sinistra, perché c'è una versione a tre strumenti e una versione a quattro strumenti. Quindi c'hai il rosmetro, il modulometro e lo smitter, tu così è. Aspetta, che ti mando la foto. Sì. Mandami la foto, vabbè. Dimmi una cosa, un particolare. I lati che sono in legno, quelli, erano leggermente mangiucchiati? Sì. Lo sono tuttora, aspetta, lasciamo cercare la foto. Allora deve essere quella lì, perché la volevo levigare, mettere a posto, invece non l'avevo fatto. Lavorata così. Allora deve essere quella. Però l'orologio funzionava perfettamente. Digitale rosso. Capito? Se poi c'è il pulsantino, che praticamente se lo tieni dentro ti manda tutto a fondo scala, se invece lo tieni fuori il segnale è giusto. Basta dire che modello è, si sa. Non me lo ricordo più il modello Massimiliano, e ne ha fatto tre o quattro modelli, però quello era un modello che lui non aveva, e invece adesso ce l'ha doppio, ecco che l'ha dato a Tino, a tratta 1. Non hai compreso, no? C'è scritto Ruiz. Allora, adesso non vorrei sbagliare, ma forse era il 624, una cosa del genere. È il 642. Il 642, sì, è lui, è quello qua. Mi devo mandare adesso. Te le gira a te, Massimiliano, perché adesso... Vabbè, dove sto andando là, ma così ti matto. Vabbè, gira da me, io ce lo so, era la mia, chissà. No, Massimiliano, quella che avevo io non è questa, perché a me me l'ha comprata, questa non, l'orologio digitale non esce lì, Tino, quello è solo il coso dei canali. La mia era quattro strumenti, e poi praticamente in mezzo dell'ultimo strumento, a parte i canali, aveva l'orologio piccolino. A me me l'ha comprata già nel doppio room, fino a mezzanotte è rimasto all'asta, 200 euro l'ho pagata a Massimiliano. Aspetta, se tu leggi dove c'è il canale, poi lanciamo a Gianni che è un po' in fanbai. Se tu leggi dove c'è il canale, adesso non ricordo se c'è 10 o 20, non mi ricordo, però nel quadratino dove sono i canali c'è scritto AMPM, quindi vuol dire pomeridiano, antimeridiano. Sì, sto vedendo, ma non è la mia questa, la mia era 4. 4 strumenti era. E poi il coso mi ricordo perfettamente. No, Massimiliano, quella che avevo io non era la tua. L'ha comprata Gianni, a me, Gianni doppio. Siamo messo a mezzanotte, va a comprare la radio. Poi io, nel periodo eravamo sempre tutti, aveva saputo che c'avevo quella lì e l'ha volata a lui. Capito? Tu non mi ricordo, tu la tua l'hai data a cosa, come si dice? Non so se te l'ho venduta io, ma mi sembra che la tua ce l'abbia Antonello Di Ossi. Allora, la mia era a tre strumenti, non a quattro, ma era a tre strumenti e funzionava tutto, orologio e tutto quanto. Io la giro da te, perché tu mi hai dato un'altra cosa al posto di quella lì, se ti ricordi bene. E quella cosa tua che mi hai dato è a Porto Torres. Capito? Poi io, tu dove l'hai fatta finire quella radio, non lo so. Qua. io mi ricordo che l'ho comprata, allora ne ho comprato un'altra, se la memoria non mi inganna, ne ho comprato un'altra, la prima volta l'ho comprata da te, l'hai data tu a me, io l'ho venduta, la mia l'ho comprata, su, e lei l'ha comprata, Gianni non più lui, chiede a Gianni quando lo sente, ne manco fino a mezzanotte all'altra, se l'aveva giudicata all'ultimo minuto a 200 euro, l'ho tenuta forse un anno, poi è capitato che eravamo qua, stavamo facendo i lavori delle antenne eccetera, se l'aveva portata via a Walter, l'ha portata a Walter, capito? Però mi ricordo che era quattro strumenti, non a tre, quindi quella non è la mia, non è neanche la tua quella lì, quella è roba che ha comprato Walter sicuramente da qualche altra parte. La tua non mi ricordo a chi l'ho data, comunque so che Antonio Riosi c'ha un Rolls, quindi può darsi pure che sia la tua. Non lo so, già può essere quella, boh. E vabbè, comunque, Rolls o non Rolls, ormai è fatto, va. No, tu mi avevi dato quella radio nera, ricordati bene, che avevi preso insieme a un lineare, capito? E io non te l'ho venduta. Abbiamo fatto uno scambio, hai capito? E poi tu l'hai data non so a chi. Non mi ricordo, non si vede, non ho avuto talmente tanto. Il console me lo ricordo, perché quando era morto Mario, Mao, Gio Maria aveva detto appunto in radio che c'erano, che c'era questa cosa, ho detto vabbè vengo e la vedo, mi prendo quello che mi serve. Ho preso il console, un ricevitore HF della Trio e qualche altra cosa, insomma, perché ne avevo 4-5 di budget allora. E poi quando mi sono rotto le palle ho dato tutto, ho dato anche il ricevitore della Trio c'era Gianni Capri 2, il console 2 c'era Gianni, il Sommer Camp sempre che era quello di Mario Mao c'era Roberto Quadriato, il 101 Digital. E insomma, però di quella radio lì non mi ricordo a chi l'ho data, vabbè, pazienza. Comunque quelle sono belle radio, bei baracchini, seri, compatti, non hanno niente a che fare con altre radio, sono baracchini seri, anche internamente sono fatti molto molto bene. Vai, ti fai girare con Gianni. Fai girare Gianni che da poco fa in stand by, se non si addormenta, Gianni. Tranquilli, se dovete di insomma chiacchierare su aspetti tecnici, già mi fa piacere ascoltare, quindi non ci sono problemi, ti. Insomma, già non succede niente. Il baracchino ce l'abbiamo anche per quello, anche per ascoltare. Ok, avanti ti. Oh, ti, che mi preparo, boh, ma che cosa, ma sono quella cosa della luce, devo far caricare, sono 8:15, vai, riprendete voi che mi preparo. Ok, allora, no, sto leggendo un pezzo che ha una specie di Bobo Carter qua in Sassari, che è una scena dell'operaio investito in via Lume e Sole, è finito un arrivo su Zoo. Sicuramente. Sì, la fibra ottica stavamo facendo. A Lume e Sole? Eia, si trova recuperato in una parte di rinnovazione all'ospedale Santa Annunziata, sul posto dell'ambulanza del 118, nella messa a torre trovarci. C'è scritto, non so stare vicino alla radio della macchina, qua nel movimento, quindi facciamo attenzione. Io lo so che un attimo, no? Questo radio con questi bobo cato, un attimo, no? Cosa deve va? Ascolta, com'è questa radio ti? Ma io ti sto ascoltando nel Lincoln, sembra bene, con l'altro non te lo... ce l'ho spento addirittura, figurati. Era meglio prima l'altra, L'altra era meglio? A voi che mi sembra di sì. Vabbè, questo qui è un panno più tre con un serpente. Sì, ho capito. Va bene, è sempre bella presente, prepotente, già va bene come radio. E l'altro è il Magno, le Sarove. Quando togli le modifiche, i magici sono, già lo sai, che sono tutti preparati, no, per la M. Sì, a me piace anche quello che sto utilizzando adesso, come radio, sei quella che intendo io, però. Cosa ti? Qual è quella che ti usano adesso? Quella con la scritta verde? Via, tutta verde con frequenze metro rosso. Bella, bella, mi piace. Sai che costa un pacco di soldi, sono la riflessa. Ma non mi interessa, non voglio più spendere soldi per queste cose. Ma questa è una bella cosa, eh. Io li ho spesi i soldi, ma sono spesi bene, ti dico che sono spesi bene, non prendi colpi. Tu pensa che ha gli stessi finali del 4.40. Ci credo, ci credo. Ci credo, però se valuti compri un HF. Su quel prezzo compri un HF. Lo so, però io ne ho avuto, ma della Giaudo che HF, guarda, io l'unico sbaglio, proprio l'unico sbaglio che ho fatto è che ho dato un 767 quadribanda della Yaesu. Ma guarda, è una bellissima radio, vecchietta, perché era vecchietta, però bella, bella radio come veramente. Scusa, prima devo parlare, ripeti già. Veia. Tutte queste radio, un elenco telefonico, invece, di modelli, varianti, variabili, modelli, come si dice, modelli, vabbè, non me lo viene avanti una serie. Vado a portare il cane dopo. Cosa hai detto, Cla? La uscita di Giro Viscia. Ah, è vero, è vero. Che suga. Già ne ho girato, Mamma mia, che bella che era quella radio. L'hai venduta bene, L'hai venduta bene, ma quella era una radio. Fatto che bella che era. Bella veramente. Non ce l'avevo qua, quanto l'ho tenuta qua? Un mese. Alla buia l'hai venduta. Bella radio. Mi aveva ragione, Però, Cla, era un barrasone, però esteticamente era troppo bello, secondo me era troppo bello. Beh, è grande quanto il 940, non più ci va bene, quella è l'unica radio che per te andava bene. Andava benissimo, però, ripeto, l'hai venuta molto bene, Quindi, su quello hai preso i soldini. La nostra operazione era andata un po' più male. Dai, ci sentiamo dopo, vado a scendere un attimo a Filippo. Dai, zio, io non se ne scorda, Nulla, te lo ricorderò, vita naturale durante. Vabbè. Gli sbagli si pagano, purtroppo è andata, e non devi fare. Ma verrai, che prima o poi verrai. Io lo so contento, c'è problema. Quando vai a operazione buona io sono sempre contento, l'ultima che hai fatto è eccezionale, quindi devi continuare a fare quel tipo di operazione, non rimetterci, perché quando ci rimetti poi a riprendere in mano la situazione viene male. Dai, vado a portare il cane, avanti Tino, riprendi. Beh, in tempo, perché c'era il QTH di cui non stava chiamando, devo cambiare la preoccupazione. Va bene, vai, porta il cane, che muovi da torra, cammina, vai, Filippo. Filippo, muovi da portare il cane a casa, cammina. Certo, girato, c'era la mente, c'era la volta di donna, ci vediamo. Chi è? Come intendi? Filippo, vieni qua, Filippo! Cazzo, mi ricordo da oggi. Cosa c'è? Dillo, ma cosa vuoi da me? Che devo andare a pisciare? Ah, io vado a fare... Ma cazzo, ma il tuo cane, non è non devo pure un gattetto, devo pure tu. Devo una giacchetta. Ma c'ho un tabù in culo la giacchetta, tu. Vabbè. Che ciucca. Se no ti darei la bicicletta. Tu poverino, non esce mai. Ne approfitto proprio per farlo camminare un po', diventare un ciccione, invece un padrone. Vabbè, un padrone, il padrone può anche limitarsi, lui no, giustamente lui più viene là e più ne mangia, no? Vabbè, devo venire a trovarlo questo Filippo, a farlo giocare un po', se non mi anche fatto. Prima lo pare barri, via, Massimiliano, via, abbaio la nonna tu, cosa vuoi? Vai che vuole uscire. A te quando viene no che ho già fatto ti allungare. Ci vuoi ti vale barri un bel ma rubiglia pare barri e l'altra. Adesso io mi ricordo che era cucciolotto, adesso quanti chili peserà? Quasi 31, 32, dai. Oh yeah. Sì, 40. Tu non sempre il meno, Secondo me è più grasso di Claudio, questo gas. È robusto, non è grasso, grasso di vecchiari. Ah, scusa, ho sbagliato. Però vai e portalo, gas. No, no, mi sto mettendo giù un botto. Gianni, non ti fare corrompere questi due, mi. Tranquillo, tranquillo, dai, dai, mi fa... Mi diverte ascoltare queste cose, dai. C'è un cane, ho già. C'è un cane che gli assomiglia, va, ne barra il buco mettendo. L'ho visto in una foto, bel cane, bel cane. Adesso tu Gianni, questo, adesso quando vedi a Massimiliano, a me mi hai già visto, no? Siamo visti 5. Quando vedi a Massimiliano, tu in radio, di chi è più grasso? Scappa, va bene. Mi toccherà anche questo, dai. Però io ho il cane che è piccolino, capito? Lui c'ha è grasso lui ed è grasso il cane, capito? Io sono grasso io e ho il cane piccolino, il mio ha preso 2 kg. Un'altra cosa c'è piccolina tu, io ho fatto l'abbinamento, tu invece manco quello sei riuscito a fare. Stai compreso che la mia la salotto, ma no, c'ha il ciuffo girato al contrario. E io vado col micione basso che me ne farà dare staffa, se no quando era giovane lo vedevi. Che succede? Riprendi il tiro. Aspetta che sto scrivendo una lettera, devo mandare un messaggio, ma Isa si sta perdendo. Aspetta, riprendo subito. Che sciuga. Oh già, ma te immagini, vai a portare sto cane, però lui si fa la pipia nella tua casa, vai gamina. Vabbè, me la dovete tenere un cornicione, Che sciuga. Oh già. Se continuiamo a chiamarlo, praticamente il cane non si la regga più. Comunque, morale, già, torniamo a noi, vai a portare il cane qua, io cammina. Allora, se riesco domani mattina, dopo le 9:09 ti faccio uno squillo, se ce la faccio. Va bene, dai, io mi faccio trovare operativo e niente, in caso di squillo già mi tengo pronto, dai, intanto guarda, ci becchiamo qua alla stazione dei treni e siamo a Dama. Se no ci possiamo beccare anche lì dopo il ponte Santa Maria, io giro a destra in quello spiazzo lì della chiesa, là, ti fa una passeggiatina veloce. Guarda, come vuoi, dimmi tu, non ci sono problemi, adesso io te l'ho buttata così, comunque se vuoi ci possiamo vedere anche lì, insomma, no problem. Dai, comunque là, vediamo adesso, domani mattina, vediamo il da farsi, là. Comunque entro domani già te lo faccio avere, o di una maniera o dell'altra, te lo faccio avere, là. No problem, grazie Massimiliano, figurati, non c'è da... Ma... troppo colpisciamento, cioè tranquillo, se è fattibile, insomma, la cosa si fa, se no si rimanda a quando viene bene. Già dormo, già, non ti preoccupare. E Tino c'è Combinetti, sta scrivendo lettere. Ho finito, no, devo mandare un messaggio forse meno un litro. Allora ho fatto un nuovo acquisto, Tino. Tipo? Qua non te lo posso dire, però ti posso mandare una foto. Manda. Però non mi fai vedere le tue voglie, perché sono fuori, sono gioioso, ok? Guarda, ti è arrivata, non so se si vede bene. Ammazza. Guarda, aspetta, cerco l'altro, aspettatemi. Non ti faccio un'altra foto perché ne ho un altro lì, sotto quello ce n'è un altro. Aspetta che metto, perché se non riesco a... Allora, aspetta un attimo, se ce l'ho ancora. No, questo è quello che mi ha mandato un altro amico, vediamo. Devo cercarlo, forse non c'è più rosati, no, aspetta che te ne mando uno io adesso. Adesso ti scrivo cosa ho pagato questa cosa, c'ha un anno e mezzo di garanzia. No, ma non mi interessa, aspetta. Guarda, se la stessa cosa, questo però, vediamo se è partito, non sta partendo adesso. che è arrivato uno, c'è anche l'altro, che è arrivato anche l'altro, è lo stesso, però uno è in trasmissione e l'altro è in associazione. Si assomiglia a noi. Quanto ne dà questo? 300. Beh, solo? Vabbè, questo è così. Vabbè, comunque, no, perché questo è a 12, vero? Questo è a 24. Questo è, se l'ha preso per la macchina, è tutto fuori di sé. È per quello che ne dà così. Però le dici che si può accoppiare una batteria anche piccola e fare il 24, capito? Sì, sì, ma ce l'ho già testato in macchina, Tutta raccana. Magari l'avrei anche visto. No, non l'ho visto. Io non è che... sinceramente non c'ho questa grandissima confidenza, capito? Ah, vabbè. Però è in zona, quindi se lo vedi passare è lui. No, a Lucia lo conosco, sì, già mi saluta, perché c'ha il figlio che è a scuola con mia figlia, nella stessa scuola di mia figlia, quindi viene spesso a prenderlo. Sì, però è uno spreco questo, capito? È uno spreco prenderlo a 24 e usarlo a 12 per la macchina. No, non lo so, forse lo sto utilizzando a 24, ma capito, 24 volts, non lo so, è un collegamento che gli hanno fatto, sinceramente non so, non mi ricordo neanche che radio sta utilizzando, non mi padre male, credo, però è una lineata con quel amplificatore. Questa è una bella bestiolina, perché a 24 questo deve dare, questo c'ha 4 finali MRF 422, sono 600. Figurati. E quanto l'hai pagato così? Cosa? Ma quanto l'hai pagato così? Quanto mi hai scritto tu? Eia! Ammazza, è bello, bello. Va bene. Vabbè, l'ho preso da un amico fuori, fuori, però parliamo a Taranto, là. Diciamo che io mi fornisco un po' da lui, radio modificate, palle varie, capito? Ebbene, una come quella lì che ti ho utilizzato adesso, non riesce a farla sbirciare, insomma, non esageratamente. Non lo so, tu mi devi dire più o meno, allora io c'è una persona che ce l'ha, però io non so quanto ne vuole, però tu scrivimi il tuo budget più o meno, io ci posso tentare, è chiusa in scatola addirittura. Sì, allora, no, neanche ti faccio la proposta. Ti ripeto, se riuscivo a sberciarmi questo valvolare e qualche 48 che ci vuole mezzo ai piedi che ne faccio un cargo, allora sarei riuscito a racimolare qualcosa in più, capito? Però allora, questo 48 il primo va bene, non lo do mai, perché questa è la mia prima stazione e ci sono affezionato. L'altro, il 48 è stesso 120 canali, quello con la scatola, ecco, tutto quanto. Quello lo posso anche dare, ma guarda quanto ne togli fu. Sì, già lo sai, tu già ci navighi bene su internet e i prezzi più o meno li sai cosa sono, cosa non sono. Io penso che, guarda, te lo scrivo più o meno cosa ne vuole. Prova, dai, prova, perché un'idea, una piccola idea c'era di prendermi un superstar nuovo, però me lo lasciavano 190 con tutte le modifiche, quindi ti puoi immaginare, era già lì per lì per partire l'ordine. È uguale a questo, però io non c'ho scatola e non c'ho microfono originale di questo, capito? Però per quella cifra si può prendere perché è chiuso dentro la scatola, è nuovo. Bello, bello. No, io intendevo l'altro invece, tipo quello, vabbè, quello che ha Claudio, no, mi sembra differente. Non lo so, questa è la versione di 200 watt. Sì, se li vuole tutti. È che, ti ripeto, è pesante. Lo so, però... Lo so, non è a tutti neanche che piace, la verità si dica, perché se non gli abbini anche un bel microfono, questi hanno questo è un po' aperto di modulazione dall'interno, da chi l'ho comprato me l'ho fatto aprire un po' di modulazione, perché se no hanno una modulazione che non è così, eh. Sicuramente come quando usciva il 140 nuovo, subito l'apertura dell'LC o il 440, e vabbè, quello sono cose che vanno fatte, se la vuoi usare, sono carica, se non è inutile che siamo già da 108. Non lo so, dimmi, io se vuoi posso chiederlo se ce l'ha ancora, se non l'ha venduto e cosa ne vuole, ma lui fino a 2 settimane fa voleva quella cifra lì, anche perché questo ne costa il doppio nuovo. Sì, lo so, ma al momento no, mi viene difficile, mi viene pesante, anche perché lo sai in che condizione sto navigando, quindi sono in cerca. In altri periodi ti avrei detto chiaro. Lo so, è un casino. Vabbè, dai, vediamo un po', da Gianni. Eia. Dai, io non ti posso mandare qualche foto a moto zappa perché tu non ne hai. Io ce l'ho, però mi dovrei scaricare la versione aggiornata ai WhatsApp, siccome ti ho detto che non ho, il mio telefono non ha un sistema Android, è su Windows, capito? E quindi ho qualche problema di aggiornamento. Cioè il tuo problema viaggia, cioè il tuo telefono viaggia su Windows? Sì, è un Lumia 535, praticamente sì, ha lo sistema operativo di Windows. Lo trovo per scaricare WhatsApp. Il problema è che adesso praticamente Windows non sta più rilasciando aggiornamenti per il telefono e quindi automaticamente non mi consente di aggiornare determinate applicazioni, capito? Sì, perché questo, Windows nel telefono è raro che trovi chi abbia la tua stessa applicazione, più o meno hanno tutti il sistema Android, tutti WhatsApp e roba del genere, no? Sì, WhatsApp era stato fatto anche per questo telefono, però se io non aggiorno, se non ho la possibilità di aggiornare il telefono, visto che la Microsoft ha smesso di fare aggiornamenti, adesso mi viene difficile aggiornare anche WhatsApp, capito? Perché io WhatsApp ce l'avevo installato, però dovrei installare una versione aggiornata, però senza gli aggiornamenti di Windows questo è difficile, capito? Sì, ho capito. Io ti mando un'altra foto. Ah, no, dopo ce l'ho qua a disposizione. Ti ripeto, è che purtroppo non è stabile la cosa, se no volentieri. Sì. E questo quanto ne dà? Sempre sì. Di uso, bello. Questo l'ho fatto fare a Siracusa. Vabbè, dai, tieniti. Quando avrò la possibilità di spendere, già ti farò sapere. Perché c'è mio figlio che adesso deve andare 4 giorni a Joe Village e molto sicuramente partirà anche a Milano, e tra una cosa e l'altra, sennò che sono sempre scendi di là e non sono che scendi. Lo so, però ti devi buscare l'alimentatore anche a 24. Vabbè, quello sì. No, io adesso questo qua sto numero a 50 ampere, ma è da 12. Bravo, là. Ti mando un'altra foto, là. Questo è il mio alimentatore, per farti capire. Guarda, dopo di questo ti cancello la WhatsApp, Hai capito, Gianni, eh? Ti fa venire la buglia. Gli sto mandando gli stuzzichini, dai. Vabbè, ma non mi abbasso a certi compromessi. Ascoltati, poi quando c'hai 2 minuti prova a entrare dove c'è l'adesivo, guarda la scritta che c'è sopra quell'adesivo, prova a entrare su Facebook e guarda chi è. Questo c'è 300 ampere a 12 e 150 a 24. Ho capito. Ma lui fabbrica anche lui, oppure cos'è? Un CB, cos'è? Queste cose qua. Sì, è un CB, però è un ingegnere elettronico. Però questo che ti ho mandato l'ultima foto l'abbiamo fatto noi. Capito? Abbiamo fatto io, Vulcano è Giovanni Originale, già lo conosci. Ah sì. Capito? 6 di quei moduli accoppiati ci sono. E ci vedo. su Facebook. Però guarda il nome dell'adesivo e vai su Facebook, se c'è la bacchetta aperta guarda cosa fa. Ah sì, perché ha capito. Aspetta, se c'è, se qua ce n'è. Ah sì, dovrebbe essere questo, vediamo. Dove entrare? Se c'è una cosettina così si è a posto. Però sì, c'è scritto il nome, però è un prigioniero, diciamo, non so se è lui, perché c'è solo lui di quella regione lì. Se si raccusa è lui. Guarda, questo è quando appena me l'ha fatto, capito? La carcassa, poi il resto dell'interno l'ha fatto tutto lui. No, questo qua è Sicilia, ma non c'è scritto Siracusa. Quindi sarà Edo, guarda, costruisce dei lineari da cima a fondo. Ma però non mi fa bene niente, sicuramente, vabbè, più che altro è una radio, però non così c'è di console musicale. Allora, guarda che nella bacheca c'ha l'adesivo che ti ho mandato bianco, non nero. Infatti non è quello allora. Aspetta un attimino, se provo a mettere un altro nome. Guardati, ti ho mandato una foto, questo l'ha fatto da poco. Pure Riddu, anche questo già è bello, bello. Questo è a 12. Questo super arieggiato, perché sennò è anche rutilineare, perché per trasportarlo. Allora, mi sembra che questo qui, non voglio sbagliare, ma sono 6.000, capito, in PP. Perché mi guardo il video? Oh già, io mettiti in WhatsApp che ti mando un po' di roba interessante. Te l'ho spiegato, Massimiliano. Io rubo la linea a qualcheduno. Uiuia, cro. Ma mi sembra che sia entrato Claudio, no? Claudio è entrato, sì. No, ho sbagliato. No, non è rientrato Claudio, ancora. Stava facendo la cacca col cane. In cooperativa. Sì. Ottimo, ho fatto una persona uguale, però 24. Sei già a pompa, cara. Stavo guardando il video che mi hanno mandato. Che troppo hanno, bacio. Sparvies. Sento tira come un cavallo. Quello è un pony, non è un cavallo. Un secondo di bianco che mi deve balzare, sennò cazzo, mi muovo un battente, le buono io. Lui, lui. Per carità. Senti. Niente, mi stavo guardando un video e qualche radio che mi ha mandato Massimiliano. Però non riesco a trovarlo questo. Cioè questo sempre non è roba di musica, questo qua è. Non è quello che mi ha detto, che mi ha mandato lui. Io ho l'87 Colt. Ce l'ho già pronto quando inizia la propagazione, intanto sto a togliere e a metterlo, lo tengo pronto con l'ignaretto da 150 watt, quello da CTE, quando inizia la propagazione, amico Massimiliano, ti andiamo a fare un po' quello brutto, il 45. Ho 46 che non ho le bande, ma 45 in AM? Sì, 45 in AM, canale 45 in AM, allora. Ora ci inizia la propagazione, ci andiamo lì a fare un po' di bordello con il radio call. Ma tu l'ho sentito anche a Gigi, ma c'era poca propagazione. Allora chiamami che vengo anche io con 48. Allora, lì ci mettiamo a fare un po' di ciabotto, va. Così dicendo, ma almeno ci facciamo sentire anche noi dalla Sardegna. No, io me l'ho preparato l'87, già pronto, quello già pumpa, mi sollevo la lancettina del letto, Colt, lui a viaggio. E Gianni ancora c'è? Eia. Quella che non piace a Gianni dice che sembro vendendo bombole. Crocro. Allora ci ritende Giulio. Giulio diciamo sempre venendo di brutta, allora non piace, ecco, no, neanche io non lo uso, 27 normale così. No, hai 45, ma non c'è propagazione, lo uso anch'io. Miraggio il dratto, ecco cosa devo fare. No, io vengo con questo. Poi, anche entrare ci fanno, ma tutte le volte che con questa qua io, poi, a figheggiare, c'è gente che nei camion, nelle cose, hanno 1000 watt, c'è allucinante. No, ci vuole quello con l'eco e sotto la scarpetta, se no, ui ui ui. Vabbè, io questo è normale adesso, poi attaccherò il resto. Ehi, ma non è questione di potenza, no? Io sono entrato una volta nel Cielo Massimiliano, sono entrato una volta io, circa 200 watt, normale però. Manca paragone, ma quando entri un letto vuoi me. Avessi ti intendene, amaci media, se no li attacchiamo con la 220, vai me. Attenzione, Sparviero, si ascolti questa piccola frattiuscina, breco breco. Ti sta provocando, Cla. Ulla. Ulla. E tu ascolti questa piccola stazione sarda, cambio. Guarda. Positivo, dai, tutta noce. Adesso l'ho agganciato, è tutto fatto originali di cambio. È arrivato la rottina. È arrivato il venditore di pesci, orate, triglie e spigole, cambio. Attenzione ragazzi, mette lo muore, ah già, come lo figlio appena, figlio buttù. Ah, questa è una signora radio, è una signora radio, questa me l'ha regalata Massimiliano Bulldozer, non mi chiami. Capito, prima l'ha tenuto tutta l'estate, pantaloncini corti e ciabatte facendo impasto, cazzo, poi va, meno male mi ha regalato una radio. Bene, Mera, si è giocato la baffa brutto. Oh, qua, già non mi manca, niente. Di là ho saluto, in grazia, lì, nel senso buono, di tutte le radio che c'hai, modificate, non. Va bene, passiamo un momento con l'altra. Questa T è la 87 Colt, questa è quella da combattimento quando inizia la propagazione. Aggancio, aglio! Ehi, ma non sei attaccato adesso, no? Oh, adesso l'aggancio, Prova, vedi, dai! Ulla! 200 watt, cambio! Va bene! Non so, tira questa! Questa è fai... Ma se questa non va come l'ha fatta? Quella non è fatta da Lumacone, quella è fatta in Sardegna. Quella mi conosco, l'ha fatta questa. Capa Brioscia. È un campione. Un campione. Quel CT è 200 volte PFT, ma si mi sta dando. Fate lo conto. E la spinge anche quel linearetto, no, già va bene. Le sta entrando con... 2 volte e mezzo. Buono, buono, intendi o ti scazzinendi lì a 60 anni, devi immaginarci. Ma è così che deve essere, sennò poi si addormenta, si mette le ciabatte, fa seggio in casa, con le mani dietro la schiena, non sa cosa fare, un po' si guarda la televisione, poi si guarda la mamma, si gira e... e ce la manda quel paese. No, ma te lo metto, ce l'ho pronto, ma... Ce l'ho pronto perché Massimiliano mi ha detto tienilo lì così non stai a montare a fare piazza a biro e così ho fatto, l'ho piazzato pronto, lineare tutto bello in ordine, quando mi dice la propagazione allora sono molto il passo con quello, capito? Già va bene, no, io vabbè ho l'altro però senza lineare adesso perché mi dovrebbe arrivare domani, però piccolino Piccolino, anche questo è un bel piccolo, è praticamente praticamente un po' più grandetto del 747, però questo è un CTE AB300, questo funge, sei potenze, funziona, ce l'ho la quarta potenza, mi massi vedere, non lo metto mai, te l'ho detto la quinta, allora c'è la quarta potenza perché da 160 watt l'importante è bianca, quando muro li tratta quasi a 230. Quello è un buon linearetto, meglio di quello della ZG sicuramente, fa la radio molto più bella e va bene, sì, no, è già la grande. Ma sai cos'è Tigre? Quando c'è un bel casino nel 45, quando entri con questa radio così originale, cioè non ti gaggano i blu più o meno, capito? Meia, aspetta che provo a attaccare questo qua, se va bene nell'altro, ma non penso, aspetta. Eia, va bene, va bene. Caro Gianni, è triste Venezia, sempre alla gatta. Ho acceso la TV adesso, c'è in fiamme la cattedrale di Notre Dame a Parigi. Ma anche la Resistenza c'è tutto buio a Parigi, compreso un presidente. L'importante non tocca la cattedrale nostra. Ma cazzo, ma io non riesco a capire, sono sempre in guerra questi. Mi sono visti no tablet, no talent, no, ma cosa cazzo vogliono? Non ho capito. Stanno distruggendo Parigi, stanno distruggendo. Ah, ma dimmi tu, hanno buttato fuoco la cattedrale, figurati tu, quella l'hanno messa a fuoco mi. No, non penso che c'entri niente. Sicuro sì, cazzo l'altro giorno ho fatto vedere chi si giombotti gialli, come si chiamano. Ma un casino di Gesù Cristo, hanno messo a fuoco negozi, macchine, moto. Ma cosa vogliono? Non ho capito cosa vogliono. Claudio, lo conosci questo microfono? Guarda, ti ho mandato una foto. Aspetta, non te l'essene. Oh, lo faccio compreso, che WhatsApp è doio, boh, non ti arrivano i messaggi subito, boh, è tutto fuori gabbo. Visione, brecco. Questa ciulla è sì. Questa è la mia piccola stazioncina, cambio a... ho questa qui entrare. Sì che lo conosco questo microfono. Lo conosco, ma ci vediamo. Il coso, lo sugar. No, questo non è lo sugar. Aspetta, ma com'è in saturazione questa? Già va bene, per fare combattimento già va bene, a tutti di nella saturazione, sì. Intanto hai 45, più salto così e più pompani. No, vabbè, è comprensibile. Sì, già comprensibile. Sì, per me va bene, a tutti di sono senza occhiali. Cos'è questo? È un po' compressa la modulazione, però così in propagazione non si che già va bene. Però dovresti leggermente abbassare, appena la radio. Oh, guarda, è microfono normale. Aumentali l'eco a vedere. Questo ricordatelo. Guarda, capo! A me va bene. Così va bene, lasciala così. Gianni, com'è? Mi sono sentato un attimo, ditemi. Gianni, guarda se ascolti questa piccola stazioncina. Cambio massa. Avanti, avanti, avanti Tino, avanti Tino con l'eco, l'eco Milano, mi lecco l'ano, avanti. E se poi non basta ti metto il... Cazzo, non deve arrivare. O singolo. Sì, che è vicino alla stazione lui, e basta con questi tre. Io sono vicino alla stazione, allora. Cazzo, però usarlo a fare questo normale, davvero, sembriamo vendendo frutta. Ah, cosa di una frutta, qua. Ogni tanto è bello anche un po', cioè... fare una scazzatina così, cazzo non si è finito con un mozzettino, futtidino, ogni tanto ci sta, va. Aracci di muravera li compri la mattina, li butti la sera, 4 kg, 1000 lire. Chi c'era che sono riuscito a fare pubblicità della matrascinca baghera? La matrascinca baghera e c'è la macchina dalla mattina alla sera, e se no te la fina. Quello era buon'anima di Gardino Sparo di Sorso, combinava poco di cose. Naturalmente hanno entrato Giuseppe un trattore, sì. E persico di sorso non sapeva chi voleva, figurati chi andava, mangiava, lui stava ancora facendo i saluti, giungano per te, per la tua famiglia, per tua moglie, per tuo figlio, per tua sorella, per i più cordiali saluti da cazzo, l'ora che zia se lo bene. Sì, pubis e prunubis, storia. No, vabbè, non ho mai attaccato questo amplificatore a questa radio, però se non discorce, se va bene lo lascio, così almeno l'altro lo lascio libero. Bene, va, bene, va. Combattimentos. Erano circa 180, quando scalda tocca la scala di 200, ma... Avete paventato in lui? Cos'hai detto, Massimiliano? Ho detto domani, quando do il microfono a Gianni, anche quel microfono dovrebbe avere lecca-lecca. Già. A posto c'è, buongiorno, all'inghiti dopo. Sono anche a me a vendere bombole. No, non fanno copiare, bombole vendo io. Tino vende frutta, Massimiliano vende pesce, tu vuoi dire la tucca. Ma io faccio la rottino. La rottino, A roppa vorbici i portelli. Bene, bene, bene. Non potevo verificare il fratello. E chi? Io c'è io. E cazzo, io c'ho un bel abbaglio. Poi è vera diretta, eh? Da di lui vera diretta con un grande fratello a casa. Ma che pensa che me ne vengano occhi, eh? Hai capito? Anche domani c'è la partita, no? Su Sky. Penso sia l'ultima che è vero, perché poi nella prossima settimana me lo sganciano perché facciamo la fibra, capito? Quindi sarà l'ultima partita dello Sky, poi la vengo a metà prezzo, anziché a 50 euro edi. E quindi io devo togliere la scheda da là e venirmene qua a guardarla, perché non me ne fanno guardare. Claro, ti scarichi quella di giro dal telefono, la guardi uguale. Io ieri ero, già lo sai davvero, mi ho guardato le MotoGP per farti capire. Sì, ottimo. Va bene, no, io, anche perché era interessante l'aria, e quindi non guarda per di quello, ma vedi due battiti, non fa. 25 euro la fibra, senza linea telefonica, e vedi tutto, punto, anche da Gio, quindi non gli regalo più. Ho fatto la raccomandata, spero che non me l'attacchino domani mentre sto guardando la partita, ma non credo, perché l'ho fatta sabato, domenica, forse arriverà a cazzo proprio domani. Mamma mia, come sto. No, la giorno fa la disetta, 30 giorni, clac, e poi staccano. Ah, così è. Io ce l'ho dal 1998, capito? No, non me lo tolgo perché, claro, sai che cos'è? In televisione non fate vedere più nulla, mi. Non c'è un film, non c'è più niente, in televisione no. Se tu non c'hai Sky non c'è più nulla, non ti fanno vedere zero. Con la tabagli di cazzo cielo, Iris, chi si filmi erotici, che paura, no. No, infatti c'ho anche Sky Cinema, c'ho tutto. Però alla fine è stato fatto per guardarmi le partite, io 45 euro per guardare una partita la settimana non gli ero, capito? Ho consultato già chi l'ha fatto, il mio vicino di casa l'ha fatto, c'ha la fibra, posso Massimiliano usare bene il computer, capito? Alla grande, e poi vedere tutto con un costo inferiore. Ci 25 euro in più, mi ripongo in busciacca, capito? E mi compro una scatola di preservativi. Massimiliano, dimmi. Allora, il microfono di cui stiamo parlando è l'M93 o l'M95? Guarda, aspetta che ce l'ho nella scatola, aspetta che lo prendo, così ti dico se è 95 o 93, aspetta. Il 93 è quello che c'ha il volume dell'amplificazione, mi sembra. Il 95 è quello che c'ha l'eco più il bip. Mi sembra che sia 95 quello, eh. Sì, ma dove l'hai collegata quella camera eco? Al 48. Funziona bene, con quella ci divertiamo queste fatte. Sì, vabbè, se si capisce, perché allora l'amplificatore è collegato all'altro, all'altro 48 diciamo, stava andando bene, ma non so se. Vediamo, lo lascio così, poi se combattiamo. scusate. Gianni, dimmi. Aspettate che devo sentire un attimino, devo guardare un numero di serie di un pacco, continuate voi. Sì, ok. Allora, questo è ZGM9595. Allora, frontale non ce l'ha nel PTT, ma frontale c'ha Roger Bip, Roger, perché me l'ho cancellato, sì, dovrebbe essere Roger Bip, poi c'ha un cursore davanti, adesso non so dico se è un eco o un michiene, boh, non lo so, comunque una specie di eco ce l'ha sicuramente. Praticamente c'ha il cursore dove c'è l'eco col tastino Roger Bip davanti, giusto? Eia. KK, ok, va bene. Quindi c'è scritto M95, 95, non è 93. Ho capito, per il 93 c'è solo il volume, basta. No, questo, cazzo, questo è serio, ho già, ma cioè, ma non mi è bigliato. Eia, ti sto dicendo che l'M93 ha solo il volume, boh. Ah, no, questo c'è anche il coso, là, c'è anche il bipisi. Quello è un 95, Massimiliano, me lo ricordo, no? Perché la verità l'ho lasciato dentro la scatola quando me l'hai dato. Il 95 è questo, c'ha il pulsantino frontale dove puoi inserire e disinserire il bip, e poi dovrebbe avere una sorta di un reverbero, un eco, una cosa del genere. Non c'ha l'amplificazione anche. Adesso quel tastino mi sembra che sia il bip, però l'eco si può inserire e disinserire, capito? Ma non c'è un bel microfono, sicuramente le aumenta la radio. Sì, sono entrato su internet, li ho visti tutti e due. L'M93 al volume del microfono senza il bip, mentre l'M95 ha il tastino con lo Roger Bip e il volume dell'eco. Quello è. KK. Va bene, ora. Sì, quello lì è. Adesso devo guardare se ho una batteria 9 volts. Già la buscavo la batteria, Massa, fatti dire. Va bene, là. Allora se te la buschi tu. Va bene così, dai, e così te lo metti, molto probabilmente ti aumenta la radio, non il doppio ma quasi. Bene meda, è tutto fa bro, ragazzi. È positivo e piano piano ti fai una stazioncina a costo zero, là. C'ho lo strumento in macchina io. Guardate anche. Solo non ho avuto tempo oggi. Adesso domani mattina c'è questo impegno, lo sai con chi. Perché così mercoledì c'ho già la scatola pronta, faccio partire quella roba a mettere il display nuovo. E ciò poi devo andare alla Linail. Poi domani mattina me la fai la spesa, quindi devo fare la spesa, vero? Se riesco a liberarmi presto, ho già, ci vediamo 5 minuti e io so dove muovermi. E se lo faccio in macchina, ho messo proprio in macchina nel cofano. Eia, bene meda, sì, vabbè. Fai tutto con calma e poi vabbè, uno squillo, già siamo qua, operativi. Vedrai tu che piano piano già c'hai tutto. Ah, ci siamo il microfono amplificato, quel baracchino vecchio quanto sia sta uscendo bene, il cavolo ce l'hai già nuovo, manca l'antenna che aspettiamo Daniele, però sta andando bene, c'è il rosmetro watt, metro per tenere sotto controllo tutto, e cosa vuoi di più? Un Lucano non virà giù, c'ho la mia sorella, ce l'ha voi con i baffi, ciao. Adesso ci mettiamo d'accordo con Daniele e temporaneamente mi presta la boomerang. Attenzione quando ho montato la boomerang, se c'è il radialino, quello appunto omnidirezionale, cerca di puntarla praticamente che puoi prendere un po' le zone che ti interessano, se no esce meglio quella che stai usando adesso, te lo sto dicendo. Punta verso il mare. La cosa più sensata, più ragionevole è quella di mettere il radialino verso la zona aperta. È sul mare che fa da piano riflettente, capito? Tu dici aperto, come ti ha detto Massimiliano, a nord, punta il radiale verso la Ginara. e speriamo che va bene, però quella che c'hai qua è eccezionale, sei 9 più 10 qua, quando monti l'antenna sono convintissimo che c'hai un segnale altissimo qui qua da me. Lì per andare bene lui doveva montare una bella Energy, una Mantova, una Ringo, anche se non è una Ringo, non è una 5 ottavi, però già con una Ringo risolvi il problema. Ma Siviglia, io c'ho il piantone, mi è rimasto solo il piantone, i radiali c'erano un po' consumati, ma il cubo è basato l'idea, è una passata di vernice bianca con la plastificata e tornano nuovi. Il piantone con i radiali della Mantova ce l'ho. Mi manca il tubo, tutto l'innesto. E come fai a farla? Dove lo prendi quell'alluminio lì? È di tre, cos'è quello? Tre o quattro misure. Ma no, va bene, lascialo stare quel piantone che può servire, lascialo così. Non puoi fare cagate, capito? Vabbè. Comunque piano piano già sta crescendo già. Adesso ti ripeto, Daniele te l'ha promessa e te la dà l'antenna. Si tratta, lui sta cercando di capire che antenna prendere, perché lui ha 40 cm di mantovana, i radiali della Energy Massimiliano sono da 1,30 m, se non riesce a farli scavalcare per montare quell'antenna ci vuole la scala aerea. Me lo stava dicendo, ma la Energy c'è anche senza radiali. Sì, ma infatti adesso lui sta decidendo, se no esce, cioè già si può scavalcare che ci vuole gente, capito? Anche la Liemo è quella casa sua, sarà l'ultimo piano, la leghiamo, la facciamo scavalcare, non è che, capito, come abbiamo fatto con la persona là, e poi il ringraziamento che ci ha dato già l'hai visto, va bene, comunque, si possono scavalcare i radiali, però, io gli ho detto, se la devi prendere, prenda, non sarà un problema, abbiamo fatto un Massimiliano le acrobazie per montare un'antenna, con i radiali ce li facciamo scavalcare, perché io salgo all'ultimo piano, capito? Inclinate appena l'antenna, tirando su, la tengo inclinata, una volta che i radiali sono, che la mantovana ha scavalcato i radiali, allora si tira da giù, capito? Perché quella sta fatta, quindi non è un problema di come abbiamo fatto là. Ma io le stavo dicendo anche a Daniele, volendo un radiale non si monta, se ne lasciano due. Anche si fa passare in mezzo a ventaglia, sì, anche. Oggi si riesce a farla scavalcare, Massimiliano. E abbiamo fatto di beccio. Ma infatti, io lo sai, da quella persona lì, cosa tutto abbiamo combinato, e quindi fatelo conto. Sì, no, già si può fare. Poi se le serve una mano, si dà e boh, non è, già costa poco andare a tirar lassù. Ma la Daniele, troppo Daniele viene bene perché è da terra, e poi tutta sta fatta, capito? Il tubo si fa salire, l'ultimo pezzo si fa salire da giù, una volta scavalcata la mantovana, si può fare tranquillamente, adesso decide lui. Cosa vuole fare? Tu fammi un fischio e poi vediamo. Mettete là che ci vuole la scheda BP nuova in quel 48. Sì, mi ho detto. Ma io gli ho detto di lasciarlo così, senza il BP. Va bene lo stesso, qua. Sono anche a posto e se lo prende così. E si prende una radio come si deve. Ma infatti gli ho detto. No, il BP già, vabbè, il BP già ci vuole, però. Una volta modificata e completa, peccato perché io mi ricordo quella radio funzionava molto molto bene, non gli ho preso quello che c'è il che sta potendo rimanere dentro, l'ho fatto da una pasticciata. Avanti T. Sì, già allora non c'è più Tino. Ah, non c'è, fare fuoco è andato. Buono, non so, si è allontanato, ma io ho altri due o tre passaggi qua e poi me la scendo giù a vedere se c'è qualcosa da te sotto i denti, che c'è un po' di fame la verità. Similia, mi girare a casa oggi, strano, ho chiesto fritto e me lo si offende. Cotolette la milanese, parte fritte stanotte. È una voglia, effetto allucinante. Vabbè, io già le mangio spesso quelle lì, ma non so se farmi due orate o c'ho anche due capponi, ma quelli li faccio domani. O voglio mangiarmi un pesce, capito? Per cagare mi ha stufato. Pucci, che? Pucci, poi quando sono freschi, che schifo, no? Io ho tutta la mia famiglia che sono pescatori, e Claudio già lo sa. mi hanno regalato due capponi ieri, ma belli, eh. Oh. Tu una cosa solo devi fare, non ti fare regalare il tonno. Mamma mia, cazzo ti, mi ha tenuto 2 mesi a tonno, non sapevo più come mangiarlo questo tonno. Mi ha dato un tonno da 2 metri, l'ha tagliato tre pezzi e me l'ha dato la mendai. Non sapevo più come mangiarlo. Sott'olio, mettilo sott'olio a casa, no, lo conservi. Ma guarda, no, non ci è arrivato sott'olio, non ci è arrivato, hanno fatto la pizzaiola, il forno, il battato, il panale friscio, il bollito, di tutte le maniere. Un tunno lo devi intendere, la mazza che te ne vai. Ma lo sai perché ti? Perché in poche parole lui mi ha detto, quando viene a casa non so cavoli mali, so cavoli veri. E io ho fatto così, capito? Ha regalato mezza cosa di tonno, boh, non so cosa avrà pesato, ma io penso che, io penso una decina di chili c'era, una cosa del genere, forse qualcosina in più. Così la prossima volta se lo guarderà di quello che dice. Sentite la matrice. Magari c'è Nicola. Sta parlando con lo capo al fratello, perché siccome con l'altro sta giocando a Frontline, no? E lui sta invece guardando un video su YouTube, sicuramente gli rallenta la connessione. Ah, già si sente la voce. Già si sente. No, no, ma si dà, buona era buona, però alla fine poi non sapevi più come fare. Non sapevi più come farlo, ma va, allucinante. Sia il cappone, ma si vedia. Dario lo fa al forno con le patate e vino bianco, buona reddua. Claro, a me non mi piace, io già lo sai, io cazzo ho trovato un pezzo di cola, ti ho dato, io ci avevo tutto il resto, ma l'ho tutto regalato perché io non li mangio. Mi ha dato un intrigo, boh, avrà pesato 40-50 kg. E di chi li mangi mani a dire? Fate lo goto, è anche 40 la sua regalati. No, è buono, insomma. Poi è rosso, secondo me è la volta sua. Sì, buono era te, l'ho condito con un po' di spezie, buono, però alla fine mi ha stufato, basta, non ce la facevo più. Guarda c'è un altro pezzo, no, devi mangiare tutto, arrangiati. Già ci vuole ogni tanto il pesce, no, io sono più per la carne, per carità, però una volta a settimana, giusto per non mangiare sempre carne e carne, insomma, qualche lattina, qualche cosa, già, qualche spigola, già la facciamo, ma sono più per la carne io. Io sono per la carne, io. Allora se tu mi metti 2 orate e una pancetta, io mi mangio la pancetta, la verità si dica, però ogni tanto già mi piace anche a me mangiarmi un pesce, una cosa così. E adesso ho 2 belle orate che mi hanno regalato e 2 capponi, freschi, li ho dati ieri. E non so se farmene uno o l'altro, se no me li posso domani a pranzo tutti e 2, me li posso al russo e buh. Sì, il cappone fai una zuppetta, però quando il cappone è cotto lo togli, lo spini e lo fai come contorno, fai un brodino a Gaia, buona rete il cappone. No, il brodino me lo mangio io, Gaia non lo mangia brodo, non le piace, però a me Daniela già ci piace il brodo di pesce. E vediamo come farlo, là. Non so se mi accabbalarmi, però è un po' tardino adesso per farlo, però domani a pranzo sicuro al 100%. Ma ci vediamo, se fai il cappone, fai cipolla, aglio e prezzemolo, ci metti olio, fai rosolare per appena la cipolla, ti cudi il jugo dritto, quando sta quasi bollendo ti cudi il cappone, un quarto d'ora, 20 minuti è pronto. Già ci arrangiamo per cucinarlo. Mia mamma mi ha insegnato bene, la buona anima. Ah, io sono maestro a fare il gruppo di pesce. Sì, hai parlato di spigole. Io nel 2013, abbiamo fatto un mega spuntino a lavoro a Canica, al depuratore di Canica, agli uffici sopra, dove c'era sala mensa. Carissimo collega che adesso non c'è neanche più, che sta lavorando in pensione, ha voluto fare tutto pesce. A me e altre 2 ci hanno messo a pulire il pesce. C'erano spigole, orate, pagelloni grandi, c'erano anguille, c'era anche qualche lagostina, insomma. Ci hanno messo a pulire il pesce. Io mi sono messo a pulire la spigola. Tieni conto che io il pesce che mangiavo era l'orata e la spigola, perché mi è sempre piaciuto. Ho aperto questa spigola, ma bella, è grande, molto bella. Ho trovato il topolino dentro, io dal giorno non ho più mangiato spigole. Perché quella lì era di porto, capito? Non era roba di mare di fuori. Di mare di fuori non ne mangiano i sorghi, non ti preoccupare. Quello sì, sicuramente era di porto. Non lo so, raga, a me mi ha fatto talmente schifo che no, io c'era anche carne, ho mangiato carne, manco l'orata ho toccato, niente. Io dal giorno, ti giuro, ma neanche l'aria. L'aria, papà, me la prendi una spigolina, una spigoletta, la porzione, voglia di pesce, gli ha comprato. Da quando gli ho detto questa cosa, anche lei mangia solo l'orata. Spigole non ha mangiato più. Non lo so, ti, non me ne intendo. Erano bellissime, molto belle. Pulendola nella pancia, gli ho visto la gola redda, ci avevo ben quanti lattici, ho tirato due trubloci e vedo lo giorighitto, ho detto, buh! Ma niente, vedi voi, a me non mi zecchete più. Vabbè, se poi andiamo a verificare le cose che mangia, per dire, la gallina o il maiale, insomma, lo sappiamo, però una cosa è quando la vedi. Cioè, spegni il telefono, spegni la cosa, così impara. Una cosa è vederla come le guida tu, magari. Una cosa invece quando la vedi, allora la mangi con gusto. Sì, quando io ero nei trasporti con la DHL, avevo la zona di Olbia, andavo alla Palmera, adesso non c'è più la Palmera, c'è un'altra azienda, andavo alla Palmera a portare merce, forse erano additivi, cose che servivano per lo stabilimento, e ho visto come fanno il tonno. Se vedi come lo fanno non le mangi più, però a me piace e continuo a mangiarlo, capito? Perché cioè, vi passavano di sopra con i beli, i tonni tutti in terra ci passavano sopra con i piedi, quindi li buttavano da una parte all'altra, però poi mi hanno spiegato, questa è la lavorazione, praticamente appena arriva, poi una volta che vanno tutti lavorati, puliti, messi in vasche di coso, capite, eccetera, un altro discorso. Ma quando tu apri un pesce, cazzo, le trovi il topo in pancia, è una cosa troppo schifosa. ci credo, vabbè. Gianni, riprendi. Gianni ci deve essere addormentato, io riprendo io e niente, vi saluto là, che me ne scendo giù, mi ha chiamato, che sicuramente è pronto qualcosa da mettere sotto i denti, là. Gianni, se ci sei là, ti aggiorno domani mattina o domani subito dopo pranzo, ok? Ciao Claudio, ciao Tino, i vari ascoltoni, che ce ne saranno tanti, e ci sentiamo alle prossime, dai, vi saluto, aspetto il finalino e poi non riprendo più, avanti Gianni. Eia, ok, dai, ci aggiorniamo. Grazie per la chiacchierata, io faccio QRT ragazzi, io stacco, vado a fare un po' di carica. Niente, grazie per la chiacchierata, saluto in circolare a tutti quanti. Buon proseguimento. Per aggiornamenti il telefono è acceso, quindi no problem. Buona serata a Tino, Claudio, Massimiliano, tutta la ruota sul 10, ok? Bye bye. Va bene, dai, riprendo io anch'io adesso. Mi devo spostare perché devo tagliare l'insalata, perché mi hanno chiamato e quindi devo il mio anche io. Ci si riascolta, dai, riuscite più tardi se ne avete voglia, sennò vado male. Dai, allora riprendo io, sì, la stessa cosa mi ha detto Anna, vieni a preparare l'insalata. Siamo le mani. Ciao Gianni, ciao Massimi, saluti a casa, ciao a te, altrettanto a te, saluti a casa, se coincide a dopo, altrimenti tutto a domani, ciao, passo e chiudo. Ciao, sentiamo, ciao. Sentiamo, è Claudio? Sì, Gianfra. Ciao, buonasera. Mi dici come sta facendo questo, com'è, se è sempre la stessa la modulazione? Sì, va bene, sempre tu. Ottimo, questo è il 2000. Ok, ciao, buona serata e buona cena anche a tutti gli altri, ciao. Ciao Gianfra, buona